se vittoria si belle, vittoria si belle, se vittoria si belle, anna guerre d'amore, fatti guerrier mio cuore, fatti guerrier, fatti guerrier, vittoria si belle, se vittoria si belle, anna guerre d'amore, fatti le ferite mortali, non temer degli amorosi strani, le ferite mortali, pugna, sappi che gloria il morir me desio della vita, sappi che gloria il morir per le dire la vita.